lacrima va giù. Dagli occhi nella gola, se sei tu che mi lasci sola. Oh no, adesso che vorrei sentire il tuo respiro su di me. Brivido divino che mi dai quando sei un dolcissimo dolore. Invisibili oramai, stessi segreti, stessi guai.